prima aliena. Yo, autodistruzione. Arriviamo nel momento saliente, rima allenamento, un approccio differente. Come quando vedi un morto e non dici niente. Non ti è mai successo, ne sono spiacente. Visto che la merda va di moda, parti con le streghe per essere roll nuova. Compiri piramidi, giri con l'auto nuova. Piano, come se portassi le uova, per fare vedere la merda che sei. La prima va la mia famiglia, tutti i miei. Con le rime faccio voli con il cuore in bocca. Con verità bollenti come merda l'albicocca. Buon appetito, sto dito, tu mangi. Noi manco i soldi per quei dischi marci. Ora mi lancio, ma si deve prima essere in alto, arrivare alla cima. Aliena, l'aliena scrittura, come l'idea della viva cultura. Autocontente, istruzione da zero, luce che muove parole davvero. La melaniera, sapienza, cultura, come l'idea dell'antica scrittura. Luce che muove parole davvero, autocontente, istruzione, pensiero. Sono anime di fango, il peggio deve ancora arrivare, ma sono troppo stanco. Fingo il vero e col vento mi spingo, guardo dentro i denti stringo. Feriti che eviti, ma lieviti ti vedi, devi debiti che ti rimedi, ti ridadi. Autodistruzione e l'attenzione che ci cedi. Sentiti da solo che se scavi poi ti trovi. Sbrigati perché non ridi come tutti gli altri. L'occhio del burattino io fermo sugli scaltri. Perché non si può comprare soldi con la merda. Perché con un fiore non si può fermare la guerra. Pensa cosa ci ha fatto l'essere umano. Ha mettato le armi e ce l'ha messa in mano. Poi ci ha messo tutti quanti contro quanti tutti. Morte, fame, guerra e queste suoni marci frutti. Rimaniera l'aliena scrittura come l'idea che la